Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. L'amore tra due esseri umani è quanto di più sconosciuto e indecifrabile possa esistere, perché la mente umana è molto complessa, è impossibile trovare un codice che sia comune a più persone con il quale catalogare dei comportamenti, le reazioni, i desideri di un uomo e di una donna. Ci sono anche dei comportamenti che nessuno ha il coraggio di esternare fino in fondo, perché magari possono essere fraintesi, possono essere comportamenti eccentrici, magari perversi, contro natura. Si ha paura di essere giudicati. Infatti, insomma, il consiglio che do a qualsiasi uomo che corteggi una donna è di non farla mai sentire giudicata, perché in quel caso la donna si ritrae ed è peggio per tutti. Oggi invece noi ci spingiamo oltre e racconteremo la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di raccontare nei suoi scritti le sue personali perversioni, e tanto da permettere di definire e catalogare dei comportamenti in un fenomeno che proprio da lui ha preso il nome. Oggi parliamo del barone Leopold von Sacher-Masoch, e non parliamo della Sacher-Torte, parliamo di quello che è universalmente conosciuto come masochismo. La sottomessa accetterà qualsiasi attività sessuale ritenuta adatta e piacevole dal dominatore. La sottomessa si comporterà sempre in modo rispettoso nei confronti del dominatore e si rivolgerà a lui chiamandolo solo signore, signor Grey o qualsiasi altro titolo il dominatore voglia richiedere. La sottomessa acconsente ad essere immobilizzata con le mani legate. La sottomessa acconsente ad essere bendata. La sottomessa acconsente ad essere imbavagliata. Quanto dolore è disposta a sperimentare la sottomessa? Ecco, noi siamo partiti con l'asticella bassissima proprio perché vogliamo andare invece molto in alto. Siamo partiti da 50 sfumature di grigio, insomma, che è una cozzaglia di concetti erotici un po' grossolana per casalinghe un po' frustrate, insomma, però si parla così in maniera un po' raffazzonata di perversione erotica, che basa tutto sul rapporto tra due soggetti che assumono la posizione l'uno del dominatore e l'altro del sottomesso, ma il fine naturalmente è quello di raggiungere il piacere attraverso la sperimentazione del dolore fisico, ma anche di una certa umiliazione mentale. Ma insomma, qui parliamo di un libro leggerino, frutto di una pianificazione commerciale, e invece noi, per capire il fenomeno del masochismo, dobbiamo partire da lontano, da una città della Galizia, la regione europea che oggi fa parte dell'Ucraina, ma che nel 1836 faceva parte dell'impero austro-ungarico. Leopoli è la città dove nasce Leopold von Sacher, il padre è il capo della polizia locale, che convola a nozze con una baronessa ucraina, Charlotte von Masoch. Insomma, Leopold acquisisce entrambi i cognomi, un titolo nobiliare che lo accompagnerà per tutta la vita. Diventa un professore, un letterato, inizia a pubblicare romanzi e raccolte di racconti brevi, grazie ai quali diventa uno stimato scrittore. Alzo il mio calice per salutare il nostro nuovo illustre collaboratore. La nostra rivista è onorata di accogliere una penna brillante e famosa come la sua, Cavalier Sacher-Masoch. Siamo sicuri che dalle nostre pagine l'eco già cospicua della sua fama e del suo valore sarà amplificata a tutto il mondo. Grazie, grazie. Alzo il mio calice grato e augurale alla nuova rivista che mi accoglie indegno tra le sue menti brillanti. Ma insomma, anche von Masoch, come tutti quelli che si sono messi davanti a un foglio bianco a riempire, a scrivere romanzi, più avanti nel tempo canzoni, musiche, e in realtà insomma lo fa anche per un fine preciso. Inizia a frequentare ambienti di alto rango e le donne vengono affascinate da un uomo che ha le caratteristiche tipiche di una educazione nobile, ha eleganza, è intelligente, è preparato, è un uomo di successo. Insomma, il cocktail è servito, e così non passa molto che lui venga considerato un rubacuori, uno che ce la fa con le donne. E di lui si raccontano avventure amorose con le più importanti donne dell'alta società dell'epoca, e la sua fama di grande amatore gli deriva soprattutto dai suoi racconti e dal contenuto dei racconti, che hanno spesso per protagoniste proprio le donne. E per capire a fondo la ricerca dell'universo femminile da parte di Saker Masoch bisogna ricordare un episodio che sconvolge il ragazzino che ha 7 anni e lui lo racconta nei suoi scritti. È bello, mi piace, perché c'è questa zia, una donna attraente che attira l'attenzione del bambino anche grazie all'abbigliamento, è una donna che ama indossare preziose pellicce, insomma, il bambino è turbato, si nasconde nell'armadio della camera della zia per poterla spiare. Lei lo scopre, lo rimprovera severamente e lo colpisce con un frustino. E a questo punto accade un fatto strano, perché il bambino, anziché provare dolore e umiliazione, si accorge di provare piacere a essere frustato dalla zia, e da qui inizia per lui un percorso che lo porta alla consapevolezza di questa perversione che si basa sulla ricerca del piacere attraverso il dolore fisico e l'umiliazione morale. Amare ed essere amati, oh quale incanto! Eppure più forte, più bello ancora è questo tormento che mi consuma. Il bacio di questa donna di cui sono vittima, lo schiavo miserabile, sottomesso, il poggiapiedi, la mia dea, la mia dittatura, la mia Venere in pelliccia. 1870, viene pubblicato il racconto La Venere in pelliccia, uno dei racconti di maggior successo di Masoch. Tutto nasce da un dipinto di Tiziano, La Venere allo specchio, in cui è ritratta appunto Venere nell'atto di specchiarsi, nuda, coperta solo da una pelliccia. E nel racconto La Venere in pelliccia è invece una donna di nome Wanda von Dunajew, una donna bellissima a cui Severin, il protagonista del racconto, decide di sottomettersi come schiavo, pur di assecondare la donna che venera come una dea, insomma pur di conquistare il suo amore. Si mette come schiavo anche perché le carte di credito non erano ancora state inventate, ma comunque inizia il rapporto tra donna che incarna il personaggio della padrona e l'uomo sottomesso, disposto a ricevere pene corporali pur di soddisfare il piacere della padrona. Il falco e il gabbiano. In realtà il racconto Venere in pelliccia del 1870 trae ispirazione da un fatto realmente accaduto al protagonista, al nostro di questa puntata, che è Saker Masoch, l'anno precedente. Dunque abbiamo detto che lui ha molta fortuna con le donne, così incrocia sulla sua strada una donna molto affascinante, una scrittrice, la baronessa Fanny Pistor, che desidera inizialmente confrontarsi con lui dal punto di vista puramente intellettuale, però tra i due poi nasce un sentimento mosso da una profonda passione, che però prende una piega diversa dalle consuete relazioni amorose, perché lei è una che ama assumere nei confronti del proprio compagno una posizione dominante e costringe il partner a sottomettersi ai suoi ordini. E Masoch, che fin da bambino vive questo rapporto conflittuale tra piacere e dolore, fino dalle frustate della bella zia, non sembra aspettare altro. I due vivono una relazione durante la quale Masoch diventa un vero e proprio schiavo della donna. Per quello che mi riguarda, io ormai ho imparato che un uomo, per amare veramente una donna, deve averne paura. Si potrebbe dire che per l'uomo la donna rappresenti la natura. Una natura dispensatrice di piacere o di dolore. Spesso di dolore. E d'altronde, come la natura, è la donna che ha il potere. Vorreste negare? Beh, come no? È la donna che ha il potere, sostiene Fanny Pistor, la baronessa, e così sottomette il povero Saker Masoch. Povero mica tanto, perché lui è contento, è lui stesso a predisporre un contratto della durata di 6 mesi nel quale lui accetta la sua totale condizione di schiavo. Un uomo senza diritti, senza libertà, costretto a sottomettersi agli ordini della donna, per questo motivo soggetto anche a punizioni corporali in caso di comportamento non idoneo a quanto stabilito nel contratto. Mio schiavo, le condizioni alle quali vi accetto come schiavo e vi tollero vicino sono le seguenti. Dovete rinunciare totalmente al vostro io. Non avrete altra volontà che la mia. Siete tra le mie mani uno strumento passivo che esegue senza discutere tutti i miei ordini. Se per caso un giorno dimenticaste che siete mio schiavo e se non mi obbediste più in tutto e per tutto, avrò il diritto di punirvi secondo il mio capriccio e di frustarvi. E se vivo nel lusso, lasciando voi nel bisogno, se vi schiaccerò sotto i miei piedi, dovrete, senza lamentarvi, baciare il piede che vi schiaccia. E così Masoch vive un periodo di 6 mesi come schiavo della sua padrona, godendo delle proprie sofferenze, del piacere procurato alla donna che lo domina senza rispetto, lo sottopone a continue umiliazioni. Uno degli episodi più grotteschi che vengono ricordati, di cui ci giunge notizia dagli iscritti proprio di Sacher Masoch, è un viaggio in treno compiuto dalla coppia in Italia a Venezia, durante il quale la baronessa viaggia comodamente in prima classe, mentre Leopold Sacher Masoch è costretto a viaggiare in terza classe tra i poveri, tra i disperati. La terza classe non era l'economy di oggi, quindi condizioni spregevoli. E di queste umiliazioni lui prova subito un grande piacere, diventa succube della donna che, dopo averlo dominato per 6 mesi, alla scadenza del contratto lo lascia. E da questa esperienza nasce il racconto Venere in pelliccia, in cui Fanny Pistol ispira il personaggio di Wanda von Dunayev e Masoch si descrive con fare autobiografico nel personaggio dello schiavo Severin. Il racconto ha un grande successo, è veramente un colpo d'ala positivo che nasce da una serie di colpi d'ala, diciamo, per noi a guardarli negativi, evidentemente per lui invece ottimi, frutto del suo periodo di umiliazione al quale lui aveva accettato di sottostare. Dopo la scadenza del contratto, Masoch e la baronessa smettono di frequentarsi, tanto che la loro relazione diventa di dominio pubblico, verrà resa nota da un'altra persona di cui ancora a questo punto non vogliamo dirvi nulla per lasciare un po' di suspense, per farvi soffrire. Masoch continua a scrivere, il suo valore viene apprezzato dagli editori che pubblicano i suoi racconti, sebbene nei suoi scritti la componente erotica e il rapporto tra piacere e dolore abbia continui riferimenti, La Venere in pelliccia rimane il testo più esplicito in cui l'uomo è messo a nudo descrivendo con particolari la sua condizione di schiavo. Dopo qualche anno per Leopold Sacher Masoch c'è un nuovo incontro, una donna con la quale inizia un rapporto dapprima solo epistolare. Sono mesi che ci scriviamo ed io ancora non conosco neppure il suo nome, signora. La forza misteriosa che emana dalle sue lettere, di fronte alla quale mi sono sentito soggiogato come di fronte a una forza della natura, mi spinge ora ad implorarla. Mi conceda la gioia di un incontro. Se non vuole che ci vediamo presso di me, decida lei dove. Venga, la prego. Col volto celato, se non vuole svelare la sua identità. Ma venga, che almeno io aspiri il suo profumo e oda la sua voce. Leopold Sacher Masoch. E vedete, oggi ci sono i siti, le chat, WhatsApp, Facebook. Allora invece si faceva così, comunque c'era il fascino di parlare con una persona che non conoscevi. La donna si chiama Aurora von Rumelin e diventa nel 1873 la moglie di Leopold Sacher Masoch, una donna che non conosce ancora il volto segreto del barone, ma che assumerà un ruolo di protagonista nella vita dello scrittore, fino al punto che ovviamente sarà lui stesso a pagarne le conseguenze. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del barone Leopold von Sacher Masoch, lo scrittore austriaco passato alla storia per il suo perverso e travagliato rapporto con le donne, rapporto che lo ha portato a rendersi schiavo, sottoponendosi a ogni tipo di umiliazione corporea e mentale. Abbiamo raccontato prima il contratto stipulato con la baronessa Fanny Pistol, che ha letteralmente dominato l'uomo per 6 mesi, infliggendogli pene corporali con frustini, umiliazioni di ogni genere, ma Masoch, contrariamente a quello che si può pensare, prova piacere da questa situazione. Più volte ne parla nei suoi scritti, tra i quali il più famoso è Venus in Furs, Venere in pelliccia. E nel 1873 si sposa Aurora von Rumelin, una donna di nobili origini che per amore abbandona il marito. Era un amore nato in modo epistolare, con delle lettere nelle quali la donna dichiarava apertamente di essere portata a dominare il suo uomo, e lui naturalmente a queste lettere si eccita notevolmente, è affascinato e attratto dalla donna, la incontra in diverse occasioni ma non vede il suo volto perché lei si presenta all'appuntamento coperta da un velo. Grazie di essere qui, stia tranquilla. Non svelerò mai il suo segreto. Io non voglio che lei pensi... Da quando ci scriviamo? Non voglio che pensi che sia venuto qui... Lei ha sempre usato uno pseudonimo. Quello della mia Venere in pelliccia. Per me lei sarà sempre Wanda von Dunen. Sì, proprio come l'eroina del suo romanzo. Le sue lettere rivelano una vera scrittrice. Ma lei veramente pensa che... Sì, lo penso. Lo penso veramente. Lei è gentile, troppo gentile. Voglio fare di lei una scrittrice. Una grande scrittrice. E Aurora è molto abile a trovare il modo per far innamorare Masoch di lei. Si firma col nome di Wanda come il personaggio del racconto scritto da lui. Si dimostra una dominatrice. Comincia a soggiogare lo scrittore. I due si sposano nel 1873. Da quel momento vivono con grande intensità un rapporto basato sui ruoli. Padrona e schiavo. E lui vive in prima persona i racconti che ha pubblicato, in cui è totalmente sottomesso al volere della donna, viene punito, frustato durante i rapporti sessuali, arriva al punto di supplicare la moglie di stipulare un contratto in cui lui possa diventare il suo schiavo. Dio mio, che ti ho fatto? Che ti ho fatto? Ancora? Non mi basta, non lo capisci che non mi basta ancora? Io ti amo, ma più forte, ti prego, più forte, fino a farmi morire! Ti amo! Lo capisci che ti amo? Più forte, fino a farmi morire! Dai! Dai! Dai! Ah. Questo era un film del 1980, cioè non era una ricostruzione fatta da noi in redazione, naturalmente. Dunque, da questa relazione nasce anche un figlio. La vita sembra scorrere normale, anche se ovviamente di normale in questo rapporto non c'è nulla. Poi, col passare degli anni, lui affina la sua perversione, arrivando al punto di proporre alla donna di tradirlo con un altro uomo, proprio come Wanda, l'eroina del racconto La Venere in pelliccia. E il processo di umiliazione deve essere talmente elevato perché Masoch chiede che tutto avvenga alla sua presenza e che lui stesso sia costretto a fare da servitore alla coppia mentre si consuma il tradimento. Ma come fai a non capire che se tu desideri un altro uomo ed io non lo so, è peggio che se tu mi tradissi? Perché mi tradiresti col pensiero. Non solo, arriveresti anche a detestarmi. Perché se mi nascondi qualcosa è perché pensi che io possa ostacolare il tuo desiderio. E invece no, sarebbe un grande atto d'amore se tu mi rivelassi tutti i tuoi desideri. Ti piace un altro uomo, vuoi andarci a letto insieme? Vacci, ma dimmelo. Fammi tuo complice. Lo capisci questo? Sì, lo capisci. Perché tu sei veramente una donna superiore. E beh, quando c'è la trasparenza in un rapporto, Aurora sta giocando una partita molto pericolosa. Comincia a non reggere più la perversione del marito. E forse tutto sarebbe andato meglio se la donna fosse stata sincera con lui fin dal primo incontro. Ma dopo una convivenza durata 10 anni, la moglie non può più dire di avere improntato il loro rapporto a una serie incredibile di menzogne. Eh sì, è il momento di calare la maschera, è il momento delle confessioni per Aurora von Rumelin, perché la donna, allora, non è mai stata una baronessa, non ha mai avuto un marito che ha lasciato per lui, lei è una dama di compagnia, diciamo, non voglio dire una escort, ma insomma una arrampicatrice sociale che aveva capito che il punto debole di Masoch era proprio quello, e quindi aveva scommesso per gioco, ma anche per interesse, di riuscire a conquistare il cuore di Masoch, scrivendogli lettere che parlavano di passione, sottomissione, sofferenza, cioè i suoi temi, i temi cari a lui. E poi solo successivamente si era innamorata di lui, recitando la parte di dominatrice, una parte che ora, dopo 10 anni, le è diventato insopportabile sostenere. E così questo rapporto totalmente falsato a monte tra padrona e schiavo finisce, i due divorziano e lei è costretta a dichiararsi adultera, viene messa ai margini di quell'alta società che in quegli anni aveva frequentato e Masoch si risposa con un'altra donna. Ma l'ossessione di aver perduto per sempre la sua Venere in pelliccia, la sua Wanda, comincia a martoriare la mente debole dell'uomo che inizia a dare segni di squilibrio. E a tutto ciò si aggiunge il fatto che lo psichiatra austriaco Richard von Krafft Ebing nel 1886 conia un nuovo termine scientifico per descrivere questa forma di perversione sessuale. Masochismo è quella particolare perversione della vita sessuale e psichica consistente nel fatto che l'individuo, nei suoi sentimenti e nei suoi pensieri erotici, è ossessionato dall'idea di essere sottomesso in modo assoluto e senza condizioni a una persona di un altro sesso, di essere trattato da questa in modo altezzoso, fino al punto di subire anche umiliazioni e torture. Il termine viene creato dallo psichiatra proprio rifacendosi agli scritti di Masoch, che per questo motivo peraltro perde quasi tutta la sua dignità letteraria. Insomma, le opere vengono dimenticate tranne i racconti erotici che avvalorano la tesi del masochismo. Dilaniato dalle sue perversioni, Sacher Masoch trasforma il delirio in violenza. Prima ammazza il gatto di casa, poi tenta di strangolare la moglie. Insomma, a quel punto per lo scrittore si aprono le porte del manicomio. Siamo nel 1895, il ricovero in manicomio per Leopold Sacher Masoch è inevitabile. L'uomo ormai ha perso tutto, la dignità professionale, dal momento che le sue opere sono state abbandonate, nessuno le ha più volute ristampare, e ha perso la dignità umana, travolto da una pazzia che cresciuta anno dopo anno, alimentata dalle sue ossessioni, il fuoco sotto la cenere. Ma Sacher Masoch ha infine perso la cosa per lui più importante, la donna amata e desiderata, la dominatrice capace di costringerlo alla condizione di schiavo, la sua Venere in pelliccia che è stata per molti anni la sua unica ragione di vita, un ideale da inseguire sopportando ogni genere di umiliazione e di sofferenza. E si dice che Sacher Masoch muoia proprio poco dopo il ricovero, ma alcuni testi scritti dichiarano invece che la sua morte sia avvenuta ben 10 anni più tardi, nel 1905, quando, ormai dimenticato da tutti, lo scrittore ha chiuso la sua parabola terrena in completa solitudine. Dopo la morte di Masoch, la prima moglie, Aurora von Rumelin, scrive un libro, Le mie confessioni, si firma Wanda von Sacher Masoch e si prende una bella rivincita, la rivincita di una donna ferita, costretta dal marito a divorziare perché riconosciuta pubblicamente colpevole proprio degli adulteri che lui le aveva chiesto, supplicato di commettere, organizzati proprio da lui per godere della sofferenza che nasce dal vedere la propria moglie tra le braccia di un altro uomo. Scusate, mi è venuto un brivido. Una donna dimenticata da tutti, che è stata prima carnefice e poi vittima delle perversioni del marito, ma che con questo libro si libera di una vita di segreti e riconquista la sua legittima identità. Sono l'unica, vera, legittima moglie del cavalier Leopold Sacher Masoch. Io, e solo io. L'altra non conta, non esiste. Io mi chiamavo Aurora Rumelin. Sono anni che non mi chiamo più così. Nessuno mi conosce più col mio vero nome, nemmeno io. Tutti mi chiamano Wanda Sacher Masoch. Quindi io sono l'unica moglie del cavalier Leopold Sacher Masoch. Ogni giorno noi abbiamo scelto di raccontare vite straordinarie e questa, a suo modo, è proprio una vita straordinaria. Comunque, riuscire a dare il proprio nome a una delle più diffuse perversioni dei giorni nostri è un colpo d'ala verso l'alto, anche se pagato molto a caro prezzo dal nostro protagonista. E noi vi aspettiamo con altre storie, e se conoscete una storia che merita di essere raccontata, seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24 oppure sui social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, sapete, mi trovate. E con una frustata vi saluto. A lunedì.